Pronto Elena? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie, bene. Senti, partiamo dal racconto. Cioè, okay. Partiamo da quando è successa questa cosa. È successa a luglio. Quindi quest'anno? Sì. Luglio sì, del 2011. Sì. Facciamo un passo indietro. Com'è che vi eravate conosciuti? Nel senso che era un appuntamento al buio totale oppure semplicemente era una persona che avevi incontrato in altri modi e c'era stato quel abboccamento? Ci conoscevamo un po' da prima, a giugno io sono stata a Milano con degli amici, ci siamo visti a cena, ci siamo conosciuti là. E poi pronti via albergo? No. Cioè no pronti via, voglio dire. No, e poi è rimasta la voglia di vedersi. 33 giorni, sì. Che tra l'altro è quasi cristologico come riferimento, non sono 32, 30, sono proprio 33. No, li ho contati. Li hai contati. Senti, noi non vogliamo entrare in quella stanza d'albergo, però è andata bene. È andata bene, sì, perché il posto era bellissimo. Cioè, ma chi se ne frega del posto, Elena? Come effettivamente tu, diciamo, la cosa a cui eri più interessata era che fosse un bel posto. No, vabbè, oltre a già tutto il posto era molto bello. Poi è andata bene, sì, perché per forza, insomma, è andata bene. Senti, c'era qualcosa di clandestino in questo incontro? Tipo che tu... No. Beh, tu no, perché altrimenti non saresti al telefono. No. Di lui, invece, di cui non diamo nomi e riferimenti, no. Cioè, era tutta la luce del sole, quindi. Sì, tutti e due single, tutto regolare. E come... Naturalmente, ci mancherebbe altro. E a che punto siamo adesso? Ci siamo rivisti, siamo stati... In un altro albergo? Sì, in montagna sì. Questa volta, sì. Cioè, niente, bene, ci rivedremo adesso, a breve. Suona un po' come una coppia clandestina, solo alberghi. Così intanto, ma perché sono tante ore di macchina, insomma, è più comodo trovare un posto a metà strada. Tu mi ricordi dove abiti, scusami Elena? Io vicino a Trento. Vicino a Trento, ok. E hai, scusami, hai detto quanti anni hai? 24 anni. Hai 24 anni, cosa fai nella vita? Io lavoro nella ditta di famiglia. Ah, che belle le ditte di famiglia. Elena, in bocca al lupo, grazie per il tuo racconto. E appunto, buona fortuna. Grazie. Ciao, grazie, buona giornata.